Buongiorno a tutti da Antonio Pavolini e benvenuti al 27esimo episodio di Conversational, la rubrica di Radio Popolare Roma dedicata alla rivoluzione dei social media. Mentre lo sviluppo della internet commerciale viaggia a velocità vorticosa, le amministrazioni pubbliche sembrano faticare per star dietro al treno. Eppure anche gli stati nazionali e gli stessi enti locali potrebbero utilizzarla come una straordinaria piattaforma democratica, se solo, per esempio, si decidessero a mettere in rete a disposizione dei cittadini la grande quantità di dati digitali che quasi fisiologicamente si ritrovano a creare e gestire. Ma non è così facile, ne parliamo tra pochissimo. Tutto nasce nel sostanzialmente 2008, Barack Obama fa questa grande campagna su internet, vince le elezioni americane grazie a internet, appena insediato la relazione tra Obama e la rete è molto complessa, è stato il primo presidente degli Stati Uniti ad andare a fare fundraising in Silicon Valley, per cui non so, Schmidt, che è il chief economist di Google, è uno dei suoi advisor più importanti, per cui il rapporto che c'è tra l'amministrazione Obama e la rete è molto molto molto stretto e strutturato. Lui non sarebbe diventato presidente degli Stati Uniti senza internet. Nel 2009 lancia una direttiva interna in cui sostanzialmente promuove la messa a disposizione per il riutilizzo, e sottolineo la messa a disposizione per il riutilizzo, dei dati dell'amministrazione centrale americana, che il presidente Bush prima di lui aveva detto essere patrimonio di tutti, perciò quel famigerato Bush addirittura senior, perché si torna indietro molto, molto tempo, aveva deciso che le informazioni dello Stato erano in pubblico dominio e per cui chiunque poteva prenderle e fare, l'amministrazione dello Stato federale, e poteva prenderle e fare un po' quello che voleva. Per cui Obama dice l'apertura rafforzerà la nostra democrazia e migliorerà l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza, la partecipazione. Questo è un po' il suo slogan e, se vogliamo, la sua filosofia. L'anno dopo Tim Berners-Lee aggiunge un pezzo a, diciamo, l'aspetto più legato alla gestione dello Stato, alla gestione della cosa pubblica, un approccio molto dal basso, un approccio molto bottom-up, e dice sostanzialmente l'importante è che i dati ce li diate così come sono, dati grezzi. Dati grezzi perché? Perché l'elaborazione, la sistematizzazione, la pulizia dei dati è argomento complesso, dibattuto, costoso, per cui per non farsi opporre un problema di costi, Tim Berners-Lee dice ce li sistemeremo poi noi questi dati, voi dateceli, noi e la comunità. E allora fa questo bellissimo intervento al TED su Raw Data Now. Allora, la voce che abbiamo sentito era quella di Lorenzo Benussi, esperto sicuramente di utilizzo pubblico dei dati generati dalle amministrazioni pubbliche. Lui lavora per Topics, un consorzio molto attivo nell'area piemontese, se non sbaglio, e abbiamo sentito un brano del suo intervento all'ultimo Digital Experience Festival che si è svolto, se non sbaglio, a Milano un paio di mesi fa. Parliamo oggi naturalmente di questo movimento degli Open Data e lo facciamo in studio intanto con Luca Nicotra, segretario dell'associazione Agora Digitale. Ciao Luca. Ciao Antonio e buongiorno agli ascoltatori. Allora, intanto che cosa combina, che cosa fa Agora Digitale? Te lo devo chiedere perché siete attivi su molti fronti, non solo quello degli Open Data, corretto? Sì, in effetti è un'associazione giovane, siamo nati nel 2009 e l'obiettivo nostro è quello sostanzialmente di preservare, difendere questi squarci di libertà che la rivoluzione, se vuoi, digitale o comunque le tecnologie digitali hanno aperto nel mondo dell'informazione, nel mondo dell'impresa, quindi nella possibilità di fare innovazione. Tutte le tecnologie hanno un percorso in cui nascono molto libere, ci si illude di nuovi spazi e poi improvvisamente arrivano gli interessi, arrivano la volontà di invece di indirizzarle in un percorso che ha conosciuto la radio, ha conosciuto la TV. Noi speriamo, ne abbiamo parlato noi speriamo nelle, che, nelle altre trasmissioni, che internet non faccia la stessa, non prenda sicuramente la stessa direzione. E allora abbiamo deciso di fare un'associazione politica, perché è un'associazione che poi è della cosiddetta area radicale, la galassia radicale, quindi si appoggia a questo mondo che ha deciso sostanzialmente di organizzarsi attorno a delle battaglie. Una delle battaglie è quella per difendere questo, che è un asset strategico, che noi consideriamo un asset strategico, quello dell'informazione di domani, in parte anche di oggi, ma sicuramente un elemento fondamentale per i prossimi anni. E lo facciamo incontrando i cosiddetti stakeholder, cercando di spingere verso delle regolamentazioni aperte, cercando ad esempio anche di spingere le amministrazioni a liberare dati e informazioni, che poi è l'argomento della trasmissione di oggi. Ecco, Agora Digitale è stata promotrice di questo importante convegno che si è svolto, credo ormai un paio di settimane fa, non vorrei sbagliarmi. 19, esatto. Sì, nella sala delle colonne della Camera dei Deputati, dal titolo indicativo La politica della trasparenza e dei dati pubblici, se non sbaglio. Un convegno che ha visto avvicendarsi al tavolo, diciamo, dei relatori, oltre chiaramente a personaggi molto importanti che hanno raccontato le esperienze, soprattutto nel mondo anglosassone, che viene sempre rigorosamente considerato un punto di riferimento irrinunciabile per questo tipo di passi avanti, e poi noi sempre dietro a cercare di capire cosa si può fare anche da noi. E poi però c'erano anche, come dire, hai detto giustamente tu, gli stakeholder, cioè i portatori di competenze, interessi, bisognerebbe dire in questo caso, e comunque persone che sarebbero chiamate in causa laddove le stesse esperienze di grande apertura venissero applicate anche da noi. Ci vuoi dire, bene o male, che cosa ha rappresentato questo convegno nel percorso di questo movimento, almeno in Italia? Ma innanzitutto abbiamo voluto portare a Roma, e in particolare in un luogo simbolico, la Camera dei Deputati, dicevi, la Sala delle Colonne, un movimento che a livello internazionale ha avuto l'appoggio, anche lo sentivamo nell'interruzione che faceva Lorenzo Benussi, l'appoggio di governi come l'amministrazione Obama, ma anche il governo Cameron. Secondo me, ecco, non dobbiamo avere paura di esterofilia quando in effetti i fatti ci sono. In Italia invece questo movimento, che pur esiste, pur è nato e pur sta acquisendo una notevole forza e sta raccogliendo anche un notevole interesse da parte degli addetti ai lavori, da parte della stampa, ecco, è un movimento che per ora è totalmente dal basso, e va bene, però noi crediamo che bisogna cominciare ad affrontare i punti centrali che impediscono alla politica italiana di affrontare la questione. Liberiamo i dati. Qui c'è un problema culturale molto ampio. In parte abbiamo voluto portare in Italia quella che Epifani, che è un altro, no, sì, dei, il professore Epifani ha definito la settima Cavalleggeri, no? Sì. Perché in realtà è stato un lungo weekend che è iniziato al Festival del Giornalismo, in cui anche i vari protagonisti del movimento Open Data si sono incontrati più volte, ci siamo messi a lavorare, addirittura in tre giorni siamo riusciti con Jonathan Gray, che è uno dei coordinatori della Open Knowledge Foundation, che è intervenuta al convegno, siamo riusciti a liberare e rendere presentabili, tanto che è stato ripreso da tutti i maggiori giornali, la stampa, Repubblica. Avete rimediato, come si dice. Esatto. Far mostrare, ecco, cosa può voler dire, diciamo, spiegare in modo semplice un bilancio, certo, che non è fare open data, c'è molto di più, lì erano già dati disponibili, però a maggior ragione si è visto come l'efficienza che può venire da un'esperienza acquisita visita all'estero, lì ci si muove davvero con una velocità estrema, no? La direttiva di cui parlava Lorenzo Benussi aveva dei tempi che erano mesi, no? Cioè, erano anche i tempi scanditi da una scadenza elettorale, se ci pensi, in un primo tempo, poi una volta fatta, certo, la promessa lì c'hanno i 100 giorni. Certo, ma lì giorni. Si dice, cioè si imposta una direttiva non in senso completamente burocratico, in cui, no, tipicamente italiano, in cui si mette insieme un comitato che decide le direttive che poi vengono mandate all'amministrazione, no, si dice all'amministrazione quello che chiede Barnes, liberate subito dei dati grezzi, quello che avete, non importa neanche che ci facciate un controllo di qualità, lo farete dopo, e intanto lo liberate e noi cominciamo a costruire con questo una rete di informazioni. Diciamo, abbiamo voluto, quindi, dicevo, portare le esperienze dall'estero, perché secondo noi serve soprattutto riuscire ad ispirare, anche far vedere ai politici italiani quello che è possibile, perché del web sì, si può parlare, noi lo facciamo questa mattina, ma il web soprattutto va visto, certo, è un'esperienza da fare, e abbiamo cercato di fare anche questo e di farlo di fronte a chi poi deve prendere le decisioni. Quindi in sostanza siamo tutti autorizzati, laddove vedessimo dei pericoli, no, dall'adozione di queste nuove policy di apertura, ad alzare una bandierina rossa, ma solo a ragion veduta e solo una volta visto nella pratica quello che succede. Quello un po' che mi sembra invece sia successo l'altro giorno alla Sala delle Colonne è qualche grossa bandiera rossa tirata su da insomma, persone sicuramente molto competenti, come per esempio la persona che stiamo per sentire adesso, uno stralcio del suo intervento, Enrico Giovannini, che è il presidente dell'Istat, che sicuramente ha delle cose da dire su questo tema. Quello che abbiamo visto oggi è certamente una rivoluzione culturale fondamentale, ed è una rivoluzione che mi ha convinto già dal 2007 che o la statistica cambia profondamente oppure verremo spazzati via fondamentalmente da questo tipo di movimento. Ed è per questo che nella mia conferenza di statistica a dicembre abbiamo invitato intanto le esperienze di Open Data in Italia, ma ho chiamato la mia relazione introduttiva del convegno Statistica 2.0, non perché ho scimmiottato il web 2.0, ma perché o noi portiamo la statistica a un livello 2, cioè un videogioco chiamato statistica, dandoci nuove regole, nuovi approcci, oppure io credo che sinceramente saremo spazzati via, e questo non sarà necessariamente un bene per la società, perché trattare dati non è così banale. È vero che tecnicamente si possono fare tutte le cose straordinarie che abbiamo visto, ma si possono fare anche molti danni nel momento in cui dai dati, soprattutto di fonte amministrativa, si traggono conclusioni errate. Perché una cosa è andare a guardare, e mi piace moltissimo, le spese individuali di Blair o di qualunque parlamentare. Una cosa è trarre informazioni statistiche da quei dati. L'origine della parola statistica è scienza dello Stato. E se vi andate a rileggere La filosofia della statistica, un libro scritto da Melchiorre Gioia nel 1836, capite appunto come l'origine del nostro lavoro era proprio quello di aiutare in quel caso i governanti, oggi io parlo di tutta la società, a prendere decisioni migliori basate sui dati. Per questo non parlo più di statistica, ma ho inventato una nuova parola che funziona in francese, meno in inglese o in italiano. Invece che statistique parlo di sociestique, societics, cioè scienza della società, qualcosa che in qualche, non sono le statistiche sociali, ma sono i dati al servizio delle decisioni individuali e non soltanto delle decisioni dei decisori pubblici. Allora, i dati al servizio non solo dei decisori pubblici, ma di tutti i cittadini, che poi, lasciatemi dire, insomma, è anche l'obiettivo del movimento Open Data, no? Intanto dovremmo essere stati raggiunti al telefono da Gianluigi Cogo, detto ben più noto in rete con il nomignolo di Gigi Cogo, che è segretario generale dell'associazione Open Government. Ciao Gigi! Ciao Antonio, ciao a tutti! Senti, io ho chiesto a Luca, no, perché è obbligatorio, che cosa fa Agora Digitale. Ora tu mi devi dire che cosa combina Open Government. Ma l'associazione Open Government, che è anche abbastanza giovane, abbiamo quasi un anno di vita, sostanzialmente intanto nasce da un gruppo di appassionati, siamo anche abbastanza eterogenei, alcuni sono consulenti, altri sono dirigenti o funzionari pubblici, altri docenti anche di queste materie. Ci siamo messi insieme con lo scopo sostanzialmente di riempire uno spazio che in questo momento è stato lasciato vuoto. Mi riferisco sostanzialmente a quello spazio normativo che probabilmente voi avrete già citato nella prima parte della trasmissione, famoso, diciamo, la direttiva Obama che tutti prendono come esempio. Noi crediamo che in Italia difficilmente si potrà fare. E quindi stiamo cercando di creare un percorso che arrivi agevolmente, in tempi rapidi, agli stessi obiettivi obamiani, anche senza una direttiva dall'alto, quindi senza una precisa presa di posizione sistemica, diciamo, da parte di chi in questo momento c'ha le redini del governo, cosa che da più parti ci rendiamo conto che in questo momento probabilmente non è nell'agenda di chi ha in mano sia il Ministero dell'Innovazione, ma sostanzialmente anche altre forme, ecco. Quindi nemmeno il Parlamento, oltre che secondo te perché non è nell'agenda del Ministero dell'Innovazione o del governo? Ma tutto sommato, sai, io recentemente ho anche scritto diversi articoli su questo perché. Secondo me è legato molto alla tradizione dell'ICT italiano nei confronti della pubblica amministrazione. L'ho detto diverse volte, ma osservando, leggendo anche i rapporti Assinform, che è l'associazione appunto di fornitori di ICT per la pubblica amministrazione, dicendolo in maniera poco ortodossa, come si dice in gergo in francese, diciamo che la pubblica amministrazione per l'ICT è una grossa tetta da mungere, dà lavoro e dà stipendialità a molte famiglie, ed è in equilibrio, è un equilibrio molto precario, quindi è difficile andare a toccare una serie di equilibri che in questo momento garantiscono commesse, appalti, una certa continuità anche nell'evoluzione, nella correzione applicativa di tanti sistemi legati alla pubblica amministrazione. Pubblica amministrazione è sostanzialmente il più grosso committente di ICT che c'è in Italia. Il movimento dell'Open Government mette un po' in discussione questo equilibrio, perché tenderebbe a scompigliare un po' le carte, come è successo negli Stati Uniti, cioè lancia altri competitori che in questo momento sono per lo più sconosciuti, i quali potrebbero, da un'opportunità, creare nuovi modelli di business. Non so quanto questo in questo preciso momento, diciamo, in Italia sia attuabile, sia possibile con un indirizzo governativo, ecco. Ecco, adesso al di là della fisiologia di questa sorta di ecosistema che ha raggiunto un equilibrio, no? La famosa mucca da mungere, c'è un altro elemento, potremmo dire, di freno. Ci sono delle istituzioni che svolgono un ruolo fondamentale nel paese, come quella che abbiamo sentito poco fa, attraverso la voce del suo direttore, l'Istat, il suo presidente, scusate, l'Istat, che chiaramente ha sviluppato negli anni una scienza, una metodologia nel trasformare i dati grezzi in informazioni, e questo chiaramente è un patrimonio che non può essere perduto. Certo. Però non pensi che questo tipo di atteggiamento, come quello che abbiamo sentito, di dover in qualche modo fare da chioccia di questo movimento, generi delle dinamiche completamente diverse rispetto a quelle cui accennava Luca poco fa, e cioè di un movimento che comunque prima parte e poi eventualmente, se c'è qualcosa che non va, lo si corregge in corsa? Lo chiedo prima a te, poi un commento. Ma diciamo sì e no, devo dirti sì e no, nel senso, io ovviamente ti porto una riflessione sicuramente viziata dal fatto che io lavoro anche dentro la pubblica amministrazione, cioè lavoro per la pubblica amministrazione perché sono dipendente nonostante sia anche consulente di tanti altri organismi, ma mi rendo conto di una cosa, cioè il dominio dei dati è quello pubblico. Io adesso non vorrei esagerare, ma questo movimento lo chiamerei non soltanto open data, ma open public data, perché è lì il patrimonio. E se tu ci pensi, dentro questo dominio poi bisognerebbe cominciare a definire dei sottoinsiemi, ma non dei sottoinsiemi dei dati, dei dataset, dei sottoinsiemi di entità pubbliche come l'Istat, che ad esempio è un'entità molto interessante. Io metterei al primo posto le regioni. Perché le regioni? Perché le regioni sono quelle che per afferenza hanno il compito di gestire la maggior parte dei dati. Ti faccio solo un esempio sanitario. Ecco, abbiamo bisogno. Ti faccio quello dell'ambiente, quello dell'istruzione, sono tutti lì. Lo Stato, tutto sommato, a parte l'Istat, a parte appunto alcuni ministeri particolarmente interessanti come possono essere quelli economici, non è che gestisca molti dati, sono le regioni quelle che ne gestiscono di più. Guarda, ed è dentro quel dominio, secondo me, che bisogna andare a scommettere. Ecco, Gigi, abbiamo bisogno come il pane a questo punto in trasmissione di fare degli esempi pratici. Certo. Mi chiedo a Luca anche di dirmi, visto che chiaramente questi dati hanno anche un valore commerciale e questo non si può negare, vorrei chiederti, Luca, qualche esempio, qualche case history di successo italiana, internazionale, perché poi a livello locale qualcosa si è mosso anche in Italia, no? Di valore trasferito ai cittadini, per esempio, dalla condivisione spontanea di dati pubblici da parte di qualche amministrazione locale. Fammi fare un appunto, una parentesi su questo, diciamo, la domanda precedente, cioè su se è possibile fare open data, se è possibile un movimento che parte dal basso, oppure se invece dobbiamo puntare a convincere le amministrazioni, convincere i nostri governanti, i ministeri, le regioni, come diceva giustamente Gigi. La mia, diciamo così, la mia forse anche formazione politica, poi no, come dicevamo, Agorà di Area Radicale, secondo me dobbiamo partire da il perché facciamo open data. Facciamo open data per fornire evidentemente nuova linfa, nuove informazioni, nuove possibilità di partecipazioni a tutti, cioè alla democrazia, diciamo così, ai cittadini nella loro interezza. Se è questo l'obiettivo, il fatto che possano esistere delle nicchie di eccellenza per me non è sufficiente, e quindi mi accorgo che è frustrante, no, pensarla in questo modo, però non possiamo supplire a un governo che non governa, non possiamo supplire a delle istituzioni che non fanno le istituzioni, che non mettono in piedi una vision, no, su quello che a cui possono servire le nuove tecnologie, in questo caso la liberazione dei dati, e quindi dobbiamo sforzarci anche in quella direzione. Il problema sul valore economico è chiarissimo, proprio lì esattamente manca la vision. Mi accorgo che non è semplicissimo, nel senso che immaginatevi. Beh, magari manca la vision, però c'è una proiezione semestrale dei ricavi che si possono ricavare dai dati. No, io parlo invece dal mondo della grande industria, no? Certo, però ancora, e questo si è visto anche al dibattito che abbiamo fatto alla Camera, in realtà le esperienze internazionali, in particolare anche quelle italiane, che hanno fatto, diciamo, sono dei casi di successo, sono ancora poche, in particolare in Italia è un miracolo, essendo l'ecosistema dei dati pubblici veramente ridotto, già che esistano 3 o 4 realtà che stanno facendo impresa legata ai dati pubblici. Però dico, mi accorgo che è un problema in qualche modo, perché non c'è ancora davvero qualcosa di così visibile, e però non è proprio così. Cioè, immaginate che vi venissero no, negli anni 80 a descrivere il web dicendo, no, noi prendiamo due documenti, li mettiamo assieme, guarda, diventerà un perno della democrazia, una cosa fondamentale. E qui noi quello che stiamo andando a dire è, guarda, tu prendi due dataset, li cominci a incrociare e vedrai che nascerà una cosa come internet, che sarà il web dei dati, e da cui le potenzialità, cioè non te lo possiamo neanche dire, tu non devi neanche progettare cosa ve ne verrà fuori, perché come internet ha mostrato, poi è chi li usa, chi farà delle applicazioni, chi si inventerà qualcosa che estrarrà, comincerà a incrociare, comincerà a prendere i dati del, che ne so, delle sovrintendenze di beni culturali e ci farà dei servizi di, per cui le persone potranno andare in giro a visitare intere città con il loro smartphone, dai musei a, con delle visite guidate, perché tutti i documenti di queste amministrazioni saranno pubblici, oppure sarà possibile, che ne so, scegliere l'ospedale con la coda minore oppure col miglior rapporto tra i tempi di attesa, certo. No, cioè è anche sciocco cercare prima, no, di definire, di dire esattamente cosa si potrà fare con questi dati. Bisogna riuscire a convincerli che questa è una rivoluzione che può essere pari a quella del web. Ecco Gigi, voi avete, se non sbaglio, cercato di smuovere un po' le acque con le amministrazioni pubbliche creando un set di strumenti, un toolkit per la condivisione dei dati pubblici. Ci vuoi accennare un po' a questa, sì, iniziativa? È il secondo step del nostro percorso. Il primo percorso è stato il manifesto per l'open government, quindi come ti dicevo prima, in assenza ovviamente di direttive, abbiamo cercato in modalità condivisa di creare i principi, no? di condividere i principi assieme a tutti gli attori di questo movimento. Il secondo ovviamente è il primo elemento sostanziale tangibile, un piccolo manualetto delle linee guida che poi presenteremo nella versione 2 il giorno 10 maggio al Forum PA. Che cos'è questo? Questo è la scatola degli attrezzi per l'amministratore pubblico, che nel momento in cui viene persuaso, dalle giustissime parole che diceva prima Luca, no? Cioè uno che si fa persuadere, che quindi vuole essere in linea con questa avventura di poter dare in mano a qualche creativo la possibilità di fare il next web, come lo chiamiamo, no? Ecco, io però ti diffido a chiamarlo web 5.0, web 6.0, no, perché sei espulso da tutte le future trasmissioni. No, l'ho chiamato Next perché sono d'accordo con Luca, no? non possiamo adesso capire, è solo la creatività di chi riuscirà a dare il meglio di se stesso e verrà stimolato in questo, potrà rappresentarci un futuro. Lo immaginiamo, ma non possiamo prevederlo. E ti dico, l'amministratore pubblico persuaso dice: ho capito, i fondamenti sono questi, c'è la componente, che io insisto sempre, anche di una nuova economia possibile, ma come faccio? Cosa devo dire al mio capo dell'informatica o al mio comunicatore o al mio direttore generale? Che cosa deve fare? No? Quindi noi abbiamo per adesso scritto a più mani anche questo manualetto che si occupa un po' della contesto organizzativo, perché tu sai che dentro le pubbliche amministrazioni poi devi rispettare le leggi, i regolamenti, gli ordinamenti, bla bla bla bla, poi quello tecnologico, perché anche da un punto di vista di semplicità, no? La prima fase, che quella più semplice, no? La trasparenza, quella che poi ha l'accento democratico, come giustamente diceva Luca, è anche abbastanza facile. Ci sono alcuni comuni che cosa hanno fatto? Hanno preso i dati, li hanno messi sul cloud di Google in formato, diciamo, foglio di calcolo, no? Ovviamente questi è una bella operazione di trasparenza ed è molto democratica, però non ce ne possiamo fare niente, dobbiamo dirgli intanto come renderli grezzi e poi come renderli linkabili, quindi come fargli tutta la parte semantica, quindi di metadati e quindi come metterli nel circuito del valore, no? Per poterli rendere interoperabili con gli altri. E ovviamente abbiamo nella versione 2 adesso posto un po' più di accento alla parte economica. Manca il terzo passo, perché ti ho detto che ne faremo tre come associazione, questi sono i primi due, quindi manifesto, linee guida. Il terzo sarà, anche qui emulando quello che è già successo e penso che ne abbiate parlato nella prima parte, faremo anche noi il concorso, il contest sulle applicazioni, perché poi quello che anche tu hai chiesto prima, Antonio, cosa c'è di tangibile? Cioè un'applicazione che io possa dimostrare a un'altra amministrazione che funziona, no? Che ha dato un valore per i cittadini, per le imprese, c'è veramente poco. In questo momento in Italia c'è veramente poco, proprio perché mancano i toolkit, mancano gli esempi, mancano i momenti di emulazione facile. Cioè sembra complicato, devo dirti la verità, nonostante io sia uno di quelli che insiste da anni su questo su questa dottrina, immagino che sia complicata per chi affronta le tematiche dell'ICT, ecco, in modalità tradizionale. E allora, per renderla ancora più complicata, diamo spazio ad un altro che alza grosse bandiere rosse, vale a dire il presidente dell'autorità garante per la protezione dei dati personali, Francesco Pizzetti. Io vorrei sottolineare una differenza fondamentale, però, che è molto importante tenere presente. Tutte le presentazioni che abbiamo avuto muovevano dal principio del cittadino cacciatore, l'open data come una riserva di caccia e di conoscenza per il cittadino, che più conosce, più è informato, più può mettere nel carniere informazioni e più cresce nella sua cittadinanza. Vale la pena di dire che il cittadino può essere anche la preda. In un internet senza regole e in un open data senza regole, il cacciatore e il cacciato sono la stessa persona quotidianamente. E questo va tenuto presente. C'è una grande possibilità di conoscere in più, ma c'è anche una grande possibilità di vedere le proprie sfere personali più riservate diventare preda di conoscenza da parte di tutti. E questo non è un problema marginale. Quando noi parliamo della messa a disposizione di tutti dei dati della pubblica amministrazione, di quali dati vogliamo venire a conoscenza, anche di come si chiama, dove risiede il cittadino che ha l'assegno di povertà, quello che è entrato nella graduatoria dei disabili ha diritto all'assistenza domiciliare, quello che ha avuto una casa popolare o un esonero dall'asilo nido, e per rendere Open Data Society più civile, un livello maggiore civiltà, che il bambino deve vedere per sempre che ha avuto l'accesso gratuito alla scuola perché il padre non aveva le risorse economiche sufficienti, ovviamente no. Credo che nessuno di noi accetterebbe mai tutto questo, però tutto questo ce lo dobbiamo rappresentare. Sono problemi ai quali dobbiamo dare una risposta, perché noi, nella nostra esperienza, assistiamo continuamente, anche in buona fede da parte delle amministrazioni pubbliche, a comportamenti che determinano questa devastazione di civiltà. Siamo dovuti intervenire su un sito della Regione Puglia che aveva pubblicato nome, cognome e anche ragioni sanitarie della concessione di benefici a disabili, e ovviamente questo ha fatto di queste persone, invece che beneficiari di una provvidenza, vittime di una violenza. Allora, questo era Francesco Pizzetti, presidente dell'autorità garante della protezione dei dati personali, che ha parlato fondamentalmente di leoni e di gazzelle, siamo tutti sia leoni sia gazzelle, di devastazione della civiltà, usando, adesso nel merito si può discutere, però ha usato un linguaggio che al convegno sicuramente ha causato qualche eyebrow raising, qualche sollevamento di sopracciglia. Mi dispiace Gianluigi che tu non ci fossi, perché sono sicuro che avresti risposto con un no secco. Con un no secco che adesso ti chiedo di esplicitare, dai. No, ma non è proprio l'ambito, cioè tutti i dati sensibili, la sfera della privacy, non c'entrano assolutamente nulla, cioè sarei andato giù secco con un no secco, non ho nient'altro da aggiungere, perché non è questo l'ambito del quale stiamo discutendo. Ecco, per lui ha fatto all'inizio adesso non l'abbiamo sentita nello stralcio, una distinzione tra dati e informazioni, no? Che in questo caso è molto importante, perché quando si parla di privacy sembra che il focus sia sull'informazione. Invece lui parla, e usa sempre questa definizione completa dell'authority, non di privacy, ma di autorità garante per la protezione dei dati personali. Luca, secondo te questo tipo di approccio così restrittivo, tutto sommato, no? Il fatto, per esempio, di andare a redarguire la Regione Puglia per questa iniziativa un po' autonoma. Tu come la... Allora, io innanzitutto sono d'accordo col no di Gigi, però il passo successivo è cercare di entrare nella testa di queste istituzioni, no? In questi freni, come li chiamavi tu, Antonio, all'inizio. E secondo me quello che sta vivendo Pizzetti quanto Giovannini prima è un dramma personale, un dramma che è un po' il dramma delle autorità in generale. È un po' il dramma del medico che si vede arrivare il paziente con la diagnosi già fatta e gli dice al medico: guardi, ho scaricato da internet questa cosa qui, so che questa è la mia malattia. E allora io cosa servo? Esatto, e allora io cosa servo? Fino a user, diciamo, empowerment che mette paura. Esatto, il problema è che fino a qualche tempo fa, in effetti, in una società che non aveva le basi statistiche, non aveva basi scientifiche, che in parte non aveva neanche il concetto di privacy, il fatto che esistessero delle autorità che decidevano a monte cosa era statisticamente valido, cosa era una diagnosi fatta bene, cosa no, e diciamo cosa si potesse divulgare e cosa no in modo preciso e diciamo e valutando ogni singolo aspetto, era possibile. Nel web no. Cioè, tutte queste autorità si devono rimettere in gioco in un contesto molto più ampio. E quindi in questo modo si può spiegare il fatto che Pizzetti parla di questioni che non c'entrano assolutamente niente con i dati pubblici, perché quasi tutti i dati di cui stiamo parlando noi non c'entrano assolutamente niente con i dati delle singole persone. Al convegno la sensazione era che comunque fosse chiara questa, diciamo, differenza di livello di cui si stava parlando. Io vi chiederei adesso, con una breve battuta, di riassumere intanto dove siete raggiungibili sul web. Open Government Gigi Cogo, l'indirizzo del sito? www.datagov.it. Mentre Agora Digitale? www.agoradigitale.org. Ci trovate anche su Facebook, tutte le principali piattaforme, Twitter. Siete pervasivi. Ecco, esatto. Tra poco ci sarà, come diceva prima Gigi, il Forum PA, che è insomma, visto che questa è una radio romana, lo diciamo, una grossa manifestazione che parla, fa diciamo lo stato dell'arte della pubblica amministrazione ogni anno alla Fiera di Roma, dove credo voi due siate coinvolti in prima persona. Sicuramente Gigi, sentivo prima il 10, cosa succede il 10 maggio? Il 10 abbiamo un convegno proprio sull'open data, organizzato proprio da noi come associazione per l'open government, durante il quale ci incontreremo anche con diverse pubbliche amministrazioni. Oltre che con diciamo alcuni fornitori di infrastruttura molto importanti, parlo di Google, di Facebook, perché poi anche queste grosse infrastrutture, io continuo a chiamarle infrastrutture piuttosto che chiamarli social network, perché di fatto lo sono, ma magari ne parleremo un'altra volta. E quindi ci confronteremo con loro anche per capire poi che tipo di applicabilità su queste infrastrutture potrebbero avere le applicazioni che poi i creativi dovessero mettere in circolo, no? Perché poi il tema è anche quello, queste infrastrutture, certo, sono infrastrutture di cloud, e lì forse è uno dei luoghi migliori dove deployare o mettere in opera, come si vuol dire, queste nuove applicazioni. Va bene, allora ci vediamo sicuramente per approfondire al Forum PA. Io intanto vi ringrazio per la partecipazione, sia Luca sia Gigi. Grazie a te, Antonio. Ricordo agli ascoltatori che tutte le puntate di Conversational possono essere scaricate in podcast dal nostro blog www.conversational.it, dove magari potete anche commentare questa trasmissione e proseguire il dibattito online. Per il momento ringrazio ancora tutti per l'ascolto e vi do appuntamento grazie alla prossima te, settimana. Ciao Gigi. Ciao, grazie.